Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento Lesbiche Romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Allora, benvenute alla nostra 106esima trasmissione. Oggi è il nostro ultimo appuntamento, anche per noi, sì, anche il coordinamento Lesbiche Romane vi dà i saluti. Questo è l'ultimo appuntamento prima delle nostre vacanze estive. Riprenderemo come di consueto a settembre, però volevamo ricordarvi che è sempre attivo il nostro indirizzo di posta elettronica, che ricordo è contatti@clrbp.it, ma anche il nostro sito che potete andare a visitare, che è www.clrbp.it, dove potete inviarci sempre dei messaggi e tutti i contatti e i contributi che volete segnalarci. Oggi qui in studio siamo Caterina e Lucilla e come sempre aspettiamo qui i vostri trillini allo 06 49 17 50. Volevamo però ricordarvi anche un altro telefono molto importante per noi, che è il nostro telefono fax e segreteria telefonica del Centro Femminista Separatista. Ricordiamo il numero, che è lo 06 68 64 201. Allora, fatevi sentire, come al solito saranno sempre graditi questi trillini, messaggi, messaggini, contributi vari. Dunque oggi, anche se è l'ultima trasmissione, l'ultimo appuntamento prima delle vacanze, apriamo comunque una nuova rubrica su indicazione di Deborah, che ce l'ha praticamente suggerita da Milano, e il titolo di questa nuova rubrica è Tuteliamo la nostra indignazione. Tutte coloro che hanno qualcosa da dire rispetto alla voglia di manifestare la propria indignazione rispetto a qualunque cosa può farlo, noi saremo ben liete di proporlo qui in radio. Leggiamo ora questo piccolo contributo che ci ha mandato di introduzione a questa nuova rubrica, ripeto, ce l'ha mandato Deborah, e il titolo è proprio Tuteliamo la nostra indignazione. Non possiamo permettere che ci sottraggano la capacità di indignarci. Questo mi ha detto tanto tempo fa una donna che amo e stimo a Roma. Quest'angolo all'interno della nostra trasmissione sarà dedicato a te, Simonetta, e a tutte le donne che, nonostante tutto, hanno conservato la loro capacità di indignarsi. L'eccidio in Palestina e in Israele, l'economia governante o il governo economico che quasi ineluttabilmente domina in Italia e in tutto il mondo. La crescente assenza di informazione in Italia e la conseguente diminuzione delle nostre possibilità di spirito critico. La potenza distruttiva delle donne nei confronti delle altre donne. Indigniamoci, Signore. Continuiamo strenuamente ad indignarci. Attenzione però, non so voi, ma io non riesco a trarre dall'indignazione altro che rabbia. E la rabbia cancella la capacità di ragionare. Da quasi un secolo le donne hanno sviluppato una crescente critica negativa nei confronti della cultura patriarcale che domina nel mondo intero e che sfortunatamente permea anche me e voi che mi ascoltate. Quello che manca, e con la crescente diminuzione di un confronto costruttivo tra donne che contestiamo giorno dopo giorno, continuerà a mancare, è la capacità di teorizzare e quindi realizzare un modello alternativo che riscatti noi donne e il mondo intero da un precipitare vertiginoso verso l'assenza di valori etici e culturali che preservino l'essere umano più che l'interesse economico dei pochi. In attesa utopica della nostra capacità di costruire un mondo privo della necessità di indignarsi, indigniamoci, Signore, continuiamo strenuamente ad indignarci. E adesso mandiamo un brano musicale delle Kick La Luna dal titolo No Compromise. Si sente ora? Ora sì. Allora, adesso sono io, Lucilla, che vi parlo e continuiamo con un pezzo che ci ha mandato Deborah, appunto, su questa nuova rubrica che apriamo grazie al contributo di Deborah e che è Tuteliamo la nostra indignazione, in questo caso la Palestina. Questa sera tuteliamo la nostra indignazione parlando dell'eccidio in corso in Palestina ed in Israele. La questione palestinese, oppure dovremmo dire la questione israeliana? Credo che anche questo dipenda da quale punto di vista guardiamo la questione. Il sangue versato diventa la questione palestinese per chi vive nella modernità di Tel Aviv, ma è la questione israeliana nei campi profughi in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. La verità è che questo è uno di quei dilemmi storici in cui non esistono buoni, che sono veramente buoni, e cattivi, che sono veramente solo cattivi. Non è un film western. È la vita, è la vita, è la storia di due popoli dilaniati da due opposti fanatismi religiosi. È la storia di uno Stato strappato al popolo arabo perché tutti gli altri popoli del mondo avevano un debito di coscienza nei confronti del popolo ebreo. Un debito determinato dall'aver fatto finta di non sapere che milioni di persone venivano massacrate nei campi di concentramento, dall'orrore che deriva dall'apprendere che l'uomo può essere un così crudele carnefice dei propri simili. Però c'è anche un'altra faccia della medaglia ed è quella di un potere economico ramificato nel 1948 come nel 2002 in tutto il mondo, in America, in Russia, in Italia e ovunque. Altrimenti non si spiega perché un orrore sia più orrido di un altro, perché per liberare la nostra coscienza dall'olocausto abbiamo permesso e stiamo permettendo quello che succede in Palestina e in Israele. E invece ci sentiamo difensori del mondo nella ex Jugoslavia o lasciamo che altri olocausti, quello curdo, quelli africani, quello che c'è stato nel 1978 e quello che molto velocemente si sta preparando in Argentina, proseguendo indisturbati senza sentire le nostre coscienze debitrici nei confronti di questi popoli. Evidentemente anche ciò che non dovrebbe avere un prezzo, cioè la nostra coscienza, di fronte al potere economico ebraico è stato svenduto ai danni di un altro popolo, quello palestinese. La verità è anche che il sionismo socialdemocratico dei padri fondatori è stato sostituito da un post-sionismo di destra che fa della guerra uno scopo e non un mezzo. Non ci sono più persone come Ben Gurion che nel 1955 dichiarava: se vi è qualunque statista arabo disposto a parlare con me per migliorare le nostre relazioni, sono pronto a incontrarlo in qualunque luogo e momento. David Ben Gurion, scusate, che nel 1965 insieme a Simon Peresh lasciava gli incarichi istituzionali perché moralmente disgustato dalle azioni di spionaggio israeliane. Una persona che, pur avendo fondato il primo esercito israeliano, faceva degli accordi politici e non della guerra la missione della sua vita. Per non parlare di Rabin, il cui assassinio, troppo spesso dimenticato, ha determinato la copiosità del fiume di sangue che sta attraversando le terre mediorientali. Ora c'è Sharon, ma non ci sono più gli israeliani che l'hanno costretto a dimettersi anni fa per la sua responsabilità diretta nelle stragi dei campi profughi palestinesi. E dall'altra parte cosa c'è? Arafat, la sua ambiguità che è quella di sempre, ma con una profonda differenza. Credo che Bush sia cosciente del fatto che la sua delegittimazione ufficiale porterà solo allo strapotere dei movimenti ultraradicali palestinesi e quindi alla distruzione del popolo palestinese. Probabilmente in una guerra in cui è ancora più vero che non ci sono buoni, che sono veramente buoni, e cattivi, che sono solo cattivi, i potenti del mondo occidentale hanno finalmente deciso come determinarne la conclusione, eliminando uno dei due problemi e ovviamente è obbligatorio eliminare quello più debole, altrimenti chi rieleggerà Bush in America senza i soldi e i voti degli ebrei? E poi bisogna fare anche in fretta, ora più che mai non si ammazzano più tra di loro. Ora c'è qualcuno che in nome della Palestina ha distrutto un paio di grattacieli zeppi di gente e si prepara a disturbare ancora le potenze occidentali proprio sul loro territorio. Ma quello che proprio non si spiega è perché la resistenza palestinese venga chiamata terrorismo. Nessuno ci dice perché i palestinesi per combattere dovrebbero preferire farsi dilaniare dalle bombe che indossano se avessero a disposizione i missili, i carri armati e le armi sofisticate israeliane. Quei giovani e quelle giovani di cui restano piccoli pezzi insanguinati vengono definiti vigliacchi dagli israeliani. Forse loro si sentono più coraggiosi dietro i mirini dei loro missili e credono sia vigliacco premere un bottone che in primo luogo porterà alla propria tremenda autodistruzione. Nessuno ci spiega nemmeno cosa distingua le azioni palestinesi da quelle della resistenza italiana contro i tedeschi. La distruzione di Via Rasella e l'eccidio di rappresaglia delle fosse ardeatine, la bomba nella traiettoria romana in via Alba Longa è stata più nobile dei kamikaze che si fanno esplodere nei ristoranti israeliani? Perché? Perché in Italia erano atti eroici e in Palestina sono attentati? Eppure stiamo parlando di due invasioni, quella tedesca in Italia e quella israeliana in Palestina. Le sigle della resistenza italiana, CVL, Corpo Volontari della Libertà, CLN, Comitati di Liberazione Nazionale, sono troppo simili a OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Sia in Italia che in Israele, le azioni di resistenza hanno determinato stragi nella popolazione civile. E poi, non potrebbe essere quella la differenza. Tutte le guerre hanno come vittime civili. Quando gli alleati hanno distrutto Berlino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non c'erano postazioni militari, ma case, ospedali, scuole. E ancora, proprio il primo ministro Sharon potrebbe raccontarci delle stragi civili di palestinesi. Ma allora, qual è la differenza? Semplice, non c'è differenza. La guerra è sempre morte, distruzione e dolore ovunque accada e qualunque strumento sia utilizzato. E questa tra Israele e Palestina è una guerra combattuta ognuno con quello che ha e che si può permettere economicamente. Ma un morto non è più morto di un altro solo perché ha i tratti che sembrano occidentali e non arabi. Almeno lasciatemelo dire nella mia lingua. A mort è una livella. E questa, nonostante la fonte, non è una battuta divertente. E adesso ci sentiamo un pezzo di Angélique Kidjo, The Sound of the Dreams. Nous mira nous contenter d'y baby no zeta me mira nungo finali di Angelina Kidjo, volevo leggervi un brano molto molto carino della nostra compagna Claudia dal titolo Le impronte del potere. Anche se non è più stagione, avete indossato i guanti per sintonizzarvi su Radio Onda Rossa? Male, avete lasciato le vostre impronte. Cancellatele finché siete in tempo, perché extra o comunitarie, a breve saremo schedate tutte. E se poi lasciate la sintonia su questa frequenza, per voi sono guai. Noi che stiamo dall'altra parte, dei microfoni ovviamente, che avete capito, e ovviamente munite di guanti, corriamo un rischio a più lungo termine, le impronte vocali necessitano di più tempo. È venuto anche a voi il ragionevole dubbio che si stia celebrando il de profundis di quella forma di governo che viene chiamata democrazia? Il dominio totale sul corpo è l'espressione massima della potestà di imperio, connaturato, direi intrinseco, al potere e a chi lo detiene, pochi maschi che tiranneggiano i sudditi. Ricorrere ai rilievi dattiloscopici per accertare l'identità significa non attribuire più valore alla parola delle persone. La parola è, o sarebbe meglio dire era, uno strumento potente che solo chi è padrone del proprio corpo può pronunciare. L'introduzione delle impronte toglie valenza a questo strumento. L'itinerario storico per la liberazione del corpo dalle grinfie dei potenti si è concluso. Si sono ripresi il corpo, cancellando secoli di lotte per l'affermazione dell'individuo come soggetto culturale, autonomo e indipendente, sia fisicamente che concettualmente. Come scrive Ida Magli, i detentori del potere vogliono esercitarlo col massimo della coercizione su un maggior numero di sudditi. Possedere il corpo dei sudditi significa possederlo del tutto e, correlativamente, perdere il diritto sul proprio corpo significa perdere tutto. Se la mia parola non vale, se quando ti dico il mio nome, tu, detentore del potere, possiedi il diritto dovere di non credermi se non possedendo il mio corpo, tramite le impronte, io, come persona, non esisto. L'uomo non è più uomo. Rientra brutalmente nel mondo della natura, privo di parola. E se la parola non vale, la democrazia non esiste. Non obiettate che la legge contempla come soggetti passivi ed extracomunitari. L'avete visto l'ex ministro Scajola dichiarare in TV soddisfatto e compiaciuto che no, non siamo razzisti. Non ci saranno discriminazioni nell'Eden italiano dei diritti umani. Le impronte digitali saranno prese a tutti. Accontentati così in un colpo solo Rutelli, la sinistra, l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Così fan tutti, con buona pace di Beccaria, ma lo sanno chi era? E del garante della privacy, ma chi è? E che dire degli accordi di Schengen sulla libertà dei viaggiatori? Non serve più il passaporto, adesso basta la carta d'identità, sì, ma con le impronte. E ora permettetemi una correlazione tra questa legge inqualificabile e la legge sulla procreazione medicalmente assistita. Impronte digitali e personalità giuridica del concepito. È lampante il contemporaneo tentativo di riappropriarsi del corpo delle donne da parte del potere, maschile sottinteso. È un caso che, subito dopo la legge sulle impronte, venga approvata dalla Camera quella su procreazione medicalmente assistita? O non piuttosto la logica conseguenza della maschilista concezione culturale per cui, con le impronte, tutti diventano schiavi? Si attuerebbe l'uguaglianza tra i sessi, ma scherziamo. Le donne devono essere più schiave dei maschi e quindi si inventa la personalità giuridica del concepito, che va tutelata. Ma da chi? Da qualcuno che non sia la donna. E si riespropria nuovamente la donna dal diritto di disporre del proprio corpo e soprattutto dell'unico potere che si era conquistata e che dà terribile fastidio ai maschi, scegliere se procreare o no, con tutte le complicazioni negative che comporta. Quindi, tutti schiavi, ma le donne più schiavi degli altri. Dopo un brano del genere, come non ringraziare? Allora ho scelto la voce di Daido con il brano musicale appunto Thank You. E adesso arriviamo ai nostri appuntamenti per l'estate, perché come vi hanno già detto precedentemente le compagne del martedì femminista, anche noi, anche per noi questa è l'ultima trasmissione, però abbiamo voglia di segnalarvi il segnalabile, tutto quello che è possibile. E partiamo da Terra di Lei, dove si terranno in luglio e in agosto una serie di laboratori, di seminari, di stage, di momenti ricreativi, eccetera. Innanzitutto, dov'è Terra di Lei? Terra di Lei è un'associazione culturale che si trova vicino Fabbro Scalo, e quindi associazione culturale Terra di Lei, 05010 Fabbro Scalo, telefono fax 0763 83 5241, e l'email è terradilei@libero.it, mentre il sito, se la volete andare a visitare, è www.terradilei.it. Ma cosa si farà a Terra di Lei? Innanzitutto il 13 e il 14 di luglio ci sarà un laboratorio, un seminario, scusate, Le radici del cielo, l'amore tra mediazione e trascendenza, seminario di mistica e politica, che è articolato appunto in diverse giornate e che vede molte situazioni interessanti da sentire, ascoltare, da cosa intendiamo per amore, dall'intelligenza dell'amore, e quindi pezzi tratti da Simone Weil e da Etty Lesum, oppure amore dato, amore ricevuto, il circolo della gratitudine, e via discorrendo. Quindi intanto questo è dal 13 al 14 luglio. In agosto ci saranno degli stage, per esempio di Qigong, oppure stage di sciamanesimo, il volo dell'anima, oppure un laboratorio di fotografia, fotografare a testa in giù, e un laboratorio di lettura, l'altro silenzio, la lettura come arte, oltre a massaggi ayurvedici e quant'altro. E ci saranno anche gli eventi serali con chi è la più bella del reame, che è una rassegna di video e di film. Caterina mi fa segno che la più bella del reame è lei, non lo so perché mi sembra di essere io, Però a parte questo, a terra di lei ci sarà una rassegna di video e film che si terranno il 6, il 7 e l'8 di agosto la sera, e poi ancora il 19, il 20 e il 21 di agosto. E poi ci sarà anche la mostra di Quando le donne erano quando le dee erano donne, le donne erano dee, che sono manufatti in ceramica che restituiscono le tecniche e lo spirito della creazione originale delle nostre ave, manufatti neolitici e paleolitici della civiltà matriarcale di Petra Bialas, che noi abbiamo dato. L'indirizzo che ho già dato, ma che vi ridarò volentieri, come mi fanno cenno dalla regia, come si dice, è Associazione Culturale Terra di Lei, a Fabbro Scalo 05010, telefono fax 0763 835241, email terradilei@libero.it, e sappiate che lì c'è la possibilità di essere ospitate, perché è un agriturismo praticamente, con possibilità di essere ospitate in campeggio, tenda, casette con bagno, eccetera eccetera. E visto che Lucilla ha parlato di soggiorni, volevo ricordarvi che anche quest'anno l'associazione Desiderande di Bari, che ha appena festeggiato il 10° compleanno, organizza vacanze in masseria dal 18 al 25 agosto 2002. La calda ospitalità del sud è un posto incantevole, organizzazione e relax, momenti collettivi di gioco e sorprese spettacolari vi aspettano fra gli ulivi secolari e il mare di Puglia. Per informazioni prendete nota questo cellulare 333-715587. Dall'Umbria alla Puglia e alla Toscana, perché no? Stage intensivo di Tai Chi Chuan e l'arte Yin e Yang, solo per donne. Programma di attività 2002 dell'associazione, e qui è tutto un programma, Le Amazzoni dell'Arcobaleno. Il 12, il 13 e il 14 luglio 2002 al Podere Petraia, 58020, Ghirlanda, Massa Marittima Grosseto, e io questo ve lo caldeggio ovviamente perché provengo da quella zona. E l'insegnante è Nathalie Romer, seminario intensivo di Tai Chi Chuan e arti marziali, ed è appunto esclusivamente riservato e pensato per le donne all'aperto in natura e nella Marimma Grossetana. Per informazioni Momo e Francesca 0566 902925, sono due donne naturalmente, Nathalie e Carlotta 0566 81071, cellulare 338 4119 256, email carlotta.natalie@libero.it. Beh, visto che lei ha detto che essendo toscana caldeggiava quello, io essendo un amante di Marlene Dietrich chiaramente non posso non parlarvi dell'undicesimo festival internazionale del cinema Frauen Film Festival, che si svolgerà a Colonia dal 2 all'8 ottobre. La sezione Queer Blick propone la recente produzione lesbica e una selezione transgender. Per informazioni www.feminale.de, oppure questo riferimento telefonico che è lo 0049 221 1300 225. E tra poco sentirete la nostra sigla finale, ma non ve ne andate perché noi rimarremo insieme fino alle 10 e abbiamo ancora un chilo e mezzo di appuntamenti da darvi, quindi la sigla è una finta, rimanete con noi. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever Quella che state ascoltando è Gabrielle con il brano Out of Reach. Ricordate anche l'estate romana, diciamo così, perché intanto potete sempre andare alla Casa Internazionale delle Donne, che è in via San Francesco di Sales, 1A, 1B, eccetera, eccetera, tutte le lettere che vi pare, in via della Lungara anche. Sappiate che le sorellastre vi accolgono ben volentieri. E si mangia bene e c'è della buona musica di sottofondo e l'ospitalità comunque di Carol è sempre splendida e l'ospitalità di Lina anche, quindi vi invitiamo comunque ad andare lì. Mi sono persa un foglio, per cui adesso perché c'è anche un'iniziativa, scusate un momento se la ribecco. No, non la sto ribeccando, quindi per ora vi beccate questa. Però l'ho trovata finalmente, che apre fra l'altro in via di Monte Testaccio, area Testaccio Village, Roma, dal 1 agosto al 14 settembre 2002, la terrazza Caffarelli, Caffè Capitolino, che è praticamente il Gay Village, cioè praticamente è un'altra delle iniziative diciamo gay, e quindi verrà inaugurata giovedì 11 luglio alle ore 11:30, quindi potrete allegramente venire. Ci sarà musica, teatro, video, discoteca, fitness addirittura, in un villaggio rivolto alla comunità gay e non solo. Quindi se avete voglia, andate. Them food hang. right upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need. And the bees, they hum along like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Quella che state ascoltando invece è Garbage con il brano Androgyny. Androgyny, anzi, mi correggo.